e pensi a quando venivi a trovarmi per raccontarmi qualcosa o per guardarci un buon film. Quanto mi pesa un'assenza, il non poterti vedere. Quando mi sento più solo, quando non credo più a niente e a nessuno. Ma tu spiegherai le tue ali e mi trascinerai in volo, oltre le cure del mondo, fino ad un luogo di pace. E parleremo di tutto, senza nessuna paura, come davanti a una birra, ma di una freschezza infinita, forse dei giorni passati, almeno di quelli importanti, e verrò ancora i tuoi occhi brillare colmi di gioia. Pensi a me delle volte, tanto più forte e sincero, tanto più pieno di vita. Capita in certi momenti che mi ricordi il coraggio con cui affrontavi le cose. Io che mi sento vigliacco e insicuro di tu spiegherai le tue ali e mi trascinerai in volo, oltre le cure del mondo, fino ad un luogo di pace. E parleremo di tutto, senza nessuna paura, come davanti a una birra, ma di una freschezza infinita, forse dei giorni passati, almeno di quelli importanti, e vedrò ancora i tuoi occhi brillare colmi di gioia. Gioia. Capita quando mi manchi, che mi ricordi il tuo volto, ma anche nei giorni più neri, e sempre però col sorriso. Ma tu spiegherai le tue ali e mi trascinerai in volo, oltre le cure del mondo, fino ad un luogo di pace. Parleremo di nuovo, senza nessuna paura, come davanti a una birra, ma di una freschezza infinita, forse dei giorni passati, almeno di quelli importanti, e vedrò ancora i tuoi occhi brillare come diamanti.